pra ti. A nostalgia é do pra ti. Brasil está ali. L'Italia aqui. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Converge Cleberson, la finta per Ronaldo, il destro, il gol. Ronaldo ancora, grandissima azione questa del Brasile. Grande. E Ronaldo segna il 2-0 che forse ha un sapore di condanna definitiva per la Germania. C'è una grande conclusione, Müller ancora in area di rigore, la lascia lì, Klose, Miro Klose, 2-0 per la Germania, porta chiusa in faccia al Brasile, record storico di gol nel campionato del mondo per Miro Klose, nessuno mai nella storia come lui. Lego Messi, uno contro uno, va sul sinistro, calcio in porta! Oh. Oh, abbiamo due ore insieme fino alle 19 per scrivere l'ultimo capitolo di questa meravigliosa storia che è stato il Mondiale del Brasile. 800 24 0024, guai a voi a chi non telefona da adesso, si prenota, perché io voglio sapere qual è il vostro pronostico. Il mio l'ho già detto, lo ripeto: vince la Germania, purtroppo, perché oggi qui siamo tutti argentini, tutti o quasi tutti. Federico Casotti, direttore di gol.com Italia. Ciao a tutti, ciao Giovanni. Siamo tutti argentini. Ma io sono sempre filo europeo, quindi dico Germania, ma ho anche la mia motivazione. Come si fa a sperare che vinca la Germania? Tu pensa da domani per mille motivi. Oggi c'è anche qualcuno che ha scritto sulla prima pagina, forse del giornale, per favore non fate vincere la Merkel. Motivi politici. Non la metterei sotto l'aspetto politico, anche perché poi la storia del mondiale è sempre stata, se vogliamo, insomma, non è il caso di andare troppo in profondità, ma insomma la storia del mondiale ha avuto anche esempi ben più gravi, insomma, di queste che sono più che altro simpatie o antipatie. E io penso in realtà che il discorso sia legato soprattutto a Messi. Messi a confronto con Maradona, perché è inutile nascondercelo, questa finale e l'epilogo di questa finale porterà poi al dibattito, a un eterno dibattito. Sì, meglio Messi, domani può anche ritirarsi, o Maradona. Messi, esatto. Diciamo la verità, se vince il mondiale può ritirarsi e sarà il più grande di tutti i tempi. Se questa sera perde la finale può ritirarsi, perché qualunque cosa farà da domani, altri 4 palloni d'oro, 3 Champions League, 18 Liga consecutive, tanto alla fine Maradona sarà sempre Maradona, esatto. E Messi sarà un gradino più sotto. Ma io mi chiedo e ti chiedo, ma Messi, anche a meno che non faccia una doppietta questa sera, e va bene, ma fino a questo momento ha fatto... per quello che ha fatto in questo mondiale è paragonabile al Maradona dell'86? Per me assolutamente no. A Maradona dell'86 no, in generale. Dovesse vincere questa sera, Messi è meglio di Maradona, è meglio di Pelé. Io lo so che gli amici, soprattutto quelli di Napoli, ho visto delle foto strepitose postate su Twitter dal nostro Giorgio De Luca, autore di questa puntata. Oggi c'è Napoli che tifa Argentina. nel ricordo di Messi e anche di Maradona, di Higuain, se vogliamo. Di Higuain, io non ho capito perché una città deve tifare l'Argentina, voglio essere sincero, ma non l'ho capito nemmeno nel 1990 in quella famosa semifinale. Però io dico, troppo banale, cioè sono troppo perfetti, troppo ricchi, troppo belli, troppo alti, troppo eleganti questi qui della Germania, per tifare per i tedeschi, che vinceranno perché sono i più forti. Però il calcio è altro, è sangue, passione, è cuore, e quindi questa sera non si può tifare che Argentina. Dai. Però nella semifinale Brasile-Germania chi è che ci ha messo passione, chi è che ci ha messo cuore? Al di là del punteggio, per come si è voluta la partita, i brasiliani parlavano tedesco, 800 24 00 24, telefoni aperti, io voglio sapere cosa ne pensate, chi ti fate anche, al di là del pronostico, che insomma è al 50%, qualcuno dice, in tanti dicono Germania, qualcuno dice Argentina, però voglio sapere per chi ti fate, e magari, visto che poi avremo anche tempo da qui alle 19 di cominciare un bilancio di questo mondiale, vorrei anche sapere che cosa vi è piaciuto e che cosa vi ha deluso, cioè ad esempio qual è stato il gol più bello? Io voto Van Persie, il primo, quel volo d'angelo, non venitemi a parlare di James Martinez, bellissimo, però quello di Van Persie meraviglioso. Beh, quello di Van Persie ti dico già che è il mio sfondo sul PC, il volo di Van Persie, perché è iconico, è effettivamente la fotografia del mondiale. Come gesto tecnico, in realtà, io penso che quello di James Rodriguez è stato veramente un gol che ha sintetizzato, secondo me, anche l'esplosione di un giocatore, anche perché è associato al giocatore che obiettivamente è stato stata la sorpresa del mondiale per lo spettatore medio che magari non segue il campionato francese, non lo ricordava in Champions League con il Porto, è stato effettivamente la vera rivelazione del mondiale, dunque rappresentato proprio dal gol all'Uruguay. Sì, gol bellissimo, buono per far crescere l'assegno che il Real Madrid dovrà staccare, oggi scrivono 80-85 milioni di euro. Jaime Rodriguez, ovviamente ho detto Jaime Martinez, però perdonatemi ma è dura, siamo arrivati alla fine di un mese difficilissimo. Scrive un amico al 349 238 6666, la cosa che mi ha deluso di questo mondiale è, carissimo Federico Casotti, che non ci sono stati giocatori rivelazione, non lo so. Ma qualcosa c'è stato, qualcosa c'è stato, io direi che il punto è un altro, secondo me, rispetto ai mondiali del passato, noi arriviamo adesso al mondiale che sappiamo già tutto di tutti e quindi è più difficile stupirsi, secondo me più che altro la differenza è quella, quando, cioè, a Italia 90, tanto per andare indietro nel tempo ma non troppo, non c'era internet, non c'era i campionati teletrasmessi tutte le domeniche, quello che potevi avere erano le coppe europee e la Serie A, dove per fortuna giocavano comunque i migliori, quindi era più facile restare stupiti da qualche giocatore. Adesso ci siamo stupiti per Keylor Navas, che comunque gioca già in Europa, ci siamo stupiti per la Costa Rica in generale, per Ochoa che gioca, era un mezzo sconosciuto, sì, ad alto livello, però poco altro, però diciamo che altro. È perché secondo me arriviamo già che sappiamo praticamente tutto, anche il carissimo Rodriguez comunque l'anno scorso è stato pagato una quarantina di milioni di euro. 800 24 00 24, veniamo in onda fino alle 19, vi aspettiamo il pronostico e che cosa vi è piaciuto e cosa vi ha deluso di questo mondiale. Traffico. Il domingo è questo partito, il domingo vas a esplotar, il domingo vas a ser il capo dell'equipo e vas a hacer dos goles e no vamos a llevar la copa del Maracaná. Algo histórico que nunca, nunca estos se van a poder olvidar. Tutti convocati. Buscando Maradona, toque de primera. Atención, se escapa Boruchaga, atención, se va Boruchaga. Se va Boruchaga, se va solo. Sí, pega, le pegó, gol. Gol de Argentina, Boruchaga. Argentina 3, Alemania 2, Boruchaga. 3-2. Mille 1986, quello lì ricordo. Tra l'altro Maradona non segnò in quella finale. Fece un assist a Buruciaga. Sì, però non segnò. Quindi comunque, se Messi questa sera dovesse segnare nella finale, insomma, è vero che Maradona fece di tutto, mano de Dios. Poi la doppietta più bella, più importante, dimenticata, perché quella col Belgio, ma c'era stata la doppietta con l'Argentina, il gol del secolo e tutto il resto. Però se Messi questa sera dovesse decidere la finale mondiale, secondo me sarebbe un ulteriore titolo per dire che Messi è meglio di Maradona. Intanto saluto l'amico Nicolò Schira, uomo mercato di Panorama, l'uomo che il 5 luglio ha scritto che Scuffè andava all'Atletico Madrid, quindi applausi. Tutto confermato, quindi. Tutto confermato. Settimana scorsa, domenica, che abbiamo letto Alexis Sanchez che va all'Arsenal, 41 milioni di euro. Chi l'aveva twittato? Nicolò Schira. No, questo per dire che abbiamo qui uno che se ne intende. 800 24 00 24. Chi vince stasera, Nicolò? Per me l'Argentina 2-1 con gol di Messi, però mi ricordo un mese fa che proprio qui avevamo detto Germania-Argentina la finale, almeno quella l'abbiamo beccata. Tu parteggiai per la Germania, io per l'Argentina, vedremo chi avrà ragione. Carlo da Napoli, Carlo. Ciao. Eccoci, ciao, buon pomeriggio. Io tifo Argentina, che come strano. Avevi già preannunciato tu che molti napoletani tifano Argentina. Il legame sicuramente in parte è per la storia di Maradona, che solo Maradona ha potuto regalare a Napoli i grandi successi, quindi Messi può vincere quello che vuole, ma per me Maradona resta sicuramente il numero uno. E poi c'è un altro aspetto che molti però non dicono, è che spesso e volentieri nei vessilli argentini in giro per Napoli c'è lo stemma borbonico, e per un sentimento di anti-italianità che molti hanno, e quindi anche come protesta, sì, che sarebbe, che sarebbe anche Napoli, ora Carlo, di ripiegare di mettere via. Secondo me era già fuori luogo nel 90, ma non apriamo questo capitolo. Perché no, riascoltare anche solo l'audio, No, rimaniamo solamente in tema sportivo, assolutamente. Però quello che ti volevo dire, per quanto mi riguarda, anche se Messi vincesse il campionato mondiale del mondo stasera, per i napoletani Maradona resterebbe comunque il numero uno, perché... Ma che fate stasera? Come vi organizzate per seguire l'Argentina? Ma guarda, io da napoletano purtroppo la seguirò in auto, perché sto viaggiando per andare al lavoro a Milano, quindi non sono a Napoli. Però penso che molti miei concittadini festeggeranno se l'Argentina vince. Se l'Argentina dovesse vincere. Grazie Carlo. Nicola dalla provincia di Lecco. Nicola. Pronto? Eccoci, ciao, ecco. Prego. Io ho telefonato solo per dare il mio risultato, sì, sulla partita di questa sera qui. Germania 2-0, quindi vincono i più forti. 2-0 perché non tiferei per nessuna delle due squadre, perché per ovvi motivi, però sportivamente tifo Germania, perché ci sono, Maradona sarà quello che è. Però noi italiani abbiamo dei campioni più forti di lui, di Maradona e di quanti ce ne fossero in tutte le nazioni del mondo che competono, perché siamo noi che alleniamo i giocatori delle squadre che competono il mondiale, siamo noi italiani che alleniamo loro, e noi italiani veniamo indietro a casa. Sì, anche se quest'anno, grazie Nicola, quest'anno ce ne sono pochini in questa finale, cioè ce ne sono 9 nominalmente, credo che titolari ne partiranno 2, Klose e Biglia, penso. Poi c'è Romero, che è italiano per modo di dire, perché alla Samp non vedono l'ora di farlo partire, hanno qualche speranza. Quanto vale oggi Romero, Nicolò? Vale 5-6 milioni di euro almeno per il cartellino. Il problema di Romero è l'ingaggio, 1.750.000 euro netti a stagione per altri 2 anni, e questo è il salasso che la Sampdoria vuole cercare di cedere, altrimenti se lo terrebbero stretto, visto che il portiere l'ha dimostrato è un grande estremo difensore. Sì, un grande portiere in questo mese, perché poi basta cliccare su YouTube Paper di Romero ed esce di tutto che ha fatto, con la Samp. Un giocatore che anche in Olanda, io me lo ricordo in Olanda quando giocava nella Z di Alkmaar, un giocatore molto umorale, capace di fare partite fantastiche e di alternare papere incredibili. Ne ricordo una che uscì dagli dal campo, tirò un pugno per la rabbia contro il muro dello spogliatoio, mano fratturata fuori 2 mesi. Sì. Quindi molto, molto umorale. Un personaggio, comunque, così come un personaggio è Daniel Martinez, giornalista argentino. Io non so necessariamente se in questo ordine di priorità. Ciao, Daniel. Oggi è in quell'ordine di priorità, Giovanni. Quindi, è in quell'ordine di priorità. Prima argentino giornalista e poi argentino. Ah, no, prima argentino. Prima argentino e dopo giornalista. Oggi, solo oggi. Ma sono veramente nervoso. È una giornata speciale. Cioè, che si vive ogni 24 anni. Per noi sono successe, è passato tutto questo tempo. 24 anni che stavamo aspettando una giornata come quella di oggi. Noi gli argentini, dico. Sì. Io, come giornalista, ti posso dire che è favorita Germania, che Germania è fortissima, che Germania è terribilmente la squadra superiore in questa finale. Io come giornalista posso dirti che sono d'accordo con tutti, però aguante Argentina, carajo. Lui è uno dei massimi esperti di cori argentini. Io, Daniel, non so se tu conoscevi il Brasil che se siente tener en casa tu papà, te juro che aunque pasen los años nunca nos vamos a olvidar que Diego los gambetió, que Cani los vacunó, que está llorando desde Italia hasta hoy. A ver si lo vas a ver, la copa nos va a traer. Maradona es más grande que Pelé. Oh, Daniel, applauso. Quindi se ti dico che se stasera il buon Messi vi consegna la coppa è più forte di Maradona, tu metti giù il telefono. Io non sono cabulero, come diciamo noi, non ho tutte queste scale mensie. No, dico che è una possibilità. È indudabile che Argentina è una squadra forte. È indudabile che, a parte gli scherzi, a parte queste cose che facciamo per giocare, però visto dal punto di vista professionale è indudabile che Germania si è dimostrata più forte, lasciando fuori che non ha giocato l'ultima partita, vuol dire che l'ha giocata quasi come un allenamento contro il Brasile. Dopo il 20° minuto, al 29° minuto è finita quella partita di gran lunga e allora ha potuto riposarsi, cioè tutto lo favorisce, però come ha detto un giocatore della Germania, gli argentini sono 11 belve, sono 11 belve veramente preparati per questo, stanno aspettando questo momento e li devi rispettare, e su questo rispetto basso tutte le mie speranze. E poi c'è Mascherano, che abbiamo scoperto anche dalle prime pagine dei giornali argentini, carissimo Federico, Nicolò, ma Daniel, essere il vero leader di questa Argentina. Mascherano i 40 milioni, cioè Mascherano più altri 40 milioni, altro che Messi. Credo Federico sia un po' una sorpresa per chi si è sempre abituato a considerare Messi il vero leader occulto di questa Argentina. Beh, io penso, e poi chiedo anche conferma, insomma, che le aspettative erano proprio quelle di, anche dopo il ritiro di Zanetti, insomma, la ricerca di un capitano che fosse un capitano carismatico, non solo un portafascia ma anche proprio un leader carismatico della squadra. E parlando con Zanetti e con Milito anche nelle settimane prima del mondiale, era venuto fuori e anche loro avevano indicato Sabaleta ad esempio come possibile erede in questo senso. Mascherano, per esperienza, per curriculum, il fatto di aver giocato nel Barcellona e nel Liverpool lo aiuta in questo senso, e si è rivelato però effettivamente il vero leader della squadra. Oh, Sergio il tassista di Milano scrive che vincerà l'Argentina 7-1 perché vendicheranno gli odiatissimi amici del Brasile. Io non so se 7-1 sia un pronostico, caro Daniel, che possiamo tenere in considerazione. Oh, mi aiuti a tradurre la prima pagina di Olé di oggi, quel solo lepido adios con adios. Allora, si tratta di una canzone molto molto famosa di Leon Gieco, un cantautore argentino, come dire qua, no d'André perché sarebbe troppo, però vicino lì, no? Con un cantautore che si chiama Leon Gieco, che ha fatto una canzone molto molto famosa interpretata dalla nostra migliore cantante, la nostra migliore voce, come se fosse Mina, e lì il paragone ci sta, che si chiamava, è morta qualche anno fa, Mercedes Sosa, dice: io solo chiedo a Dio che il mondo non mi sia indifferente, cioè una serie di cose, quasi una preghiera. È una preghiera, invece gli argentini solo chiedono a Dio oggi, e poi la foto è il Cristo del Corcovado e Messi, che poi è il Dio vero e il Dio pagano, il Dio calcistico. Non so stasera cosa conta di più in questa giornata, che mi sembra gli argentini, Daniel, vivano in maniera un po' mistica, questa domenica di attesa come verso la finale. Uguale che la nazionale, e per quello che abbiamo speranze, perché un paese, guarda, il mio paese, soprattutto negli ultimi 24 anni, da quando non abbiamo questa possibilità, è un paese nel quale la maggioranza della gente perde il lunedì, perde il martedì, perde quando va a fare la spesa al mercato e deve scegliere molto accuratamente quello che deve mettere nel carrello, perde continuamente. Adesso non cambia niente, perché lunedì succederà sempre lo stesso, il martedì succederà sempre lo stesso, ma oggi è domenica e oggi si gioca una finale del mondo. Io che ho potuto vedere la crescita dei miei figli con un almanacco particolare, i mondiali, mi ne vedo adesso con una figlia di 29 anni che aveva un anno quando nell'86 ha alzata la coppa l'Argentina. Lei non l'ha mai visto. È arrivato il momento che lo veda. È per quello che si può capire che ci sia dietro una questione quasi mistica. Grazie, Daniel. Un piacere enorme, Giovanni. Un abbraccio a tutti i convocati. Come sempre, un piacere enorme. Un grandissimo in bocca al lupo. Io non so in Argentina come si fa a dire quella cosa là senza dire quella cosa che porta sfortuna. Quindi noi diciamo in bocca al lupo e ce la caviamo l'italiana. Ciao, Daniel. Si dice aguante. Non dice né forza né niente. Aguante. Aguante vuol dire resistere. Figuriamoci se sappiamo soffrire. Aguante. Ciao, Daniel. Aguante. Ci fermiamo. Pubblicità. A los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0, Alemania Federal se está clasificando campeón del mundo. E poi noi parliamo oggi della Germania che può tornare al mondiale dopo il 2002, ed è vero che potrebbe vincere il quarto titolo come noi, ed è un po' meno vero, perché ad esempio quel gol lì di Breme, stiamo parlando comunque della Germania Ovest, cioè quello di oggi potrebbe essere, carissimo Federico Casotti, il primo mondiale della Germania. Sì, e tra l'altro non è neanche una distinzione di lana caprina, perché ad esempio quello del 74 la Germania Est c'era nel mondiale e batté la Germania 1-0. Ovest, quindi non è solamente una Sparvasser. Esatto, non solamente una rivisitazione, una precisazione storica, ma effettivamente quello è stato l'ultimo colpo di coda della guerra fredda, perché di questo parliamo. Quello di adesso fa anche capire anche come è mutato poi il calcio tedesco, che una volta, quello del 90, era un calcio tedesco che, come disse Bodo Ilgner, faceva prima radunarsi a Roma, perché la formazione titolare era quasi tutta di giocatori di Serie A, tranne appunto Bodo Ilgner e pochissimi altri. E quello di adesso è un blocco Bayern che è anche un blocco Guardiola, come la Spagna di 4 anni fa aveva molto del Barcellona di Guardiola, e secondo me potrebbe non essere una coincidenza. Sì, secondo me non è nemmeno una coincidenza che uno dei pochi giocatori argentini che ha grandissimo valore di mercato ed è spostabile quest'estate, come Di Maria, che tra l'altro pare questa sera non giocherà, sicuramente non titolare, probabilmente verrà portato in panchina, ma ieri sera ha avuto qualche problemino ancora nell'ultimo allenamento e quindi non dovrebbe far parte della partita. Beh, Di Maria però in queste ore è al centro di una delle follie di mercato mercato, delle tante follie di mercato di queste settimane? Beh, sicuramente, anche perché c'è il Paris Saint-Germain che offre 60 milioni, ma soprattutto offre un quinquennale da 8 milioni netti a stagione più bonus al calciatore che è in scadenza fra un anno con il Real Madrid. Ha chiesto 8 milioni per rinnovare, una cifra ritenuta esagerata da Florentino Perez, e dunque si sta guardando intorno. Oltre al PSG c'è il Monaco, però chiaramente la preferenza va per la formazione parigina. E a Madrid invece arriverà un altro protagonista della finale come Toni Kroos, ragazzo che fra l'altro è nato nella Germania Est, l'ultimo giocatore della Germania Est, visto che era nato a febbraio dell'anno che poi invece vide, insomma, l'abbattimento del famoso muro. Sì, 60 milioni, Paris Saint-Germain, sempre se ritrovano lo scontrino e possono restituire al mittente l'amico di Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Pier, ci sei? Allora, cerchiamo di recuperare la linea con Pierluigi Pardo. Oggi è scusatissimo, perché è in viaggio verso il Maracanà di Rio de Janeiro, e quindi insomma può anche essere che le linee telefoniche facciano fatica. Amico di Pierluigi Pardo al secolo, David Lewis, protagonista anche ieri sera di una partita sconcertante, quanto vale oggi David Lewis sul mercato? Sicuramente vale un po' meno dopo le ultime due partite. Oggettivamente è stato pagato tanto, ma questo ci ha dimostrato una volta di più come il PSG, quando vuole un giocatore, non si faccia problemi. Infatti, oltre appunto a Di Maria, i transalpini sono su altri due giocatori importanti, Koke dell'Atletico Madrid, anche qui la valutazione oscilla tra i 50 e i 60 milioni, e nel caso in cui non dovesse arrivare il centrocampista dell'Atletico, occhio sempre a Paul Pogba, che è un altro nome caldo sul taccuino di Laurent Blanc. Sì, poi di nomi caldi che riguardano la Juve ce ne sono tantissimi, poi abbiamo tempo per parlarne, ma insomma oggi soprattutto c'è Vidal in testa a tutti i discorsi. Allora, ci sono Massimo da Udine, Livio da Roma, 800 24 00 24, io lo ripeto il numero perché oggi voglio dare spazio anche alla gente da casa, voglio sapere il vostro pronostico e cosa vi è piaciuto e cosa no di questo mondiale. Da casa scrivono al 349 238 6666: la Germania asfalta l'Argentina, Eliano da Como, Germania stellare contro il Brasile, questa sera non avrà problemi anche se sarà diverso, questo è Walter. Poi c'è chi addirittura si sbilancia, la Germania passerà nei primi 10 minuti del secondo tempo e farà il raddoppio intorno all'80esimo, quindi finisce 2-0. I nostri amici da casa si sbilanciano, non hanno paura. Massimo da Udine, Massimo. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, voi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Innanzitutto una notazione interessante sul fatto che il fair play finanziario vale per alcuni ma non per altri. Ho sentito la valutazione di Di Maria del Paris Saint-Germain, si parla tanto di queste cose, poi alla fine i soliti noti fanno quello che fanno. Sì, vabbè. È curioso, tra l'altro in realtà il Paris Saint-Germain, caro Nicolò, dovrà vendere prima o poi, perché il fair play finanziario lo obbliga a vendere, non tanto a non spendere. Un nome importante però in uscita potrebbe essere quello di Edinson Cavani, il cui rapporto è ai minimi termini con Laurent Blanc, lo vuole il Manchester United. Van Gaal ha un budget da oltre 200 milioni da investire sul mercato, ha già speso per Luke Shaw, vuole spendere per Ricardo Rodriguez, l'esterno sinistro del Wolfsburg, che ha fatto molto bene al mondiale con la Svizzera, cerca un grande attaccante. Cavani, 70-80 milioni, insomma, lo United sarebbe pronto a spendere. Comunque deve vendere. Prego però, Massimo, prego. Beh, per quanto riguarda stasera, Argentina tutta la vita, se non altro perché discorsi di Germania Est che si facevano prima, la Germania vincendo ci raggiunge come mondiali vinti, e la cosa non mi garba più di ma tanto. Non è vero, non è vero, sfatiamo questo mito, la Germania poi vince il primo mondiale se oggi alza la coppa. O no? Non sono troppo sicuro che Monaco e Berlino dintorni la pensino così. Comunque, ma se vincesse la Repubblica Ceca, conteggerebbero Cecoslovacchia, che non ha mai vinto il mondiale, però credo che gli farebbero la somma con i titoli della Cecoslovacchia o no? Ma qua bisogna entrare anche poi in un discorso di diritto costituzionale che annoierebbe a morte i nostri ascoltatori, però c'è da dire che in Germania intendono la Germania federale e che la Germania Est è stata annessa in qualche modo alla Germania Ovest, e di conseguenza è la Germania Ovest che si è ingrandita e la fanno passare in questa maniera, che tutto sommato ci può anche stare. Intendono così, noi se questa sera la Germania vince il campionato del mondo diciamo che assolutamente non è così, e quindi i tedeschi stanno a 1 e noi siamo a 4 ancora. Livio da Roma. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora io dico che sono, dopo che italiano sono argentino, in quanto ho avuto dei nonni che sono partiti del 900 praticamente a Buenos Aires, io tiferò senz'altro Argentina. E tra l'altro c'è da considerare che questa sera fra i pali ci sarà anche Papa Francesco. Sì, fra i pali o in attacco o in fascia destra, non lo so. Avete visto la foto di Maradona che ha postato, che poi in realtà è la pubblicità di una nota casa che non citiamo, siede la parte bassa dell'abito del Papa con sotto le scarpe da calcio, Francisco. Ma secondo voi è vero che non lo vede stasera la finale? Perché il Vaticano ha fatto sapere che il Papa è super partes. E il Papa è super partes. Mi ricordo Ban Ki-moon che nella fase a giugno aveva detto: no, non tiferò Corea del Sud perché io sono un diplomatico e devo essere super partes. Io credo che Papa Francesco in realtà sia a suo modo comunque giustamente appassionato e legato alla sua terra. E io credo più che altro che la storia della finale dei due papi, della quale si è parlato molto in questi giorni, sia una suggestione. Ma ecco, tra i due io penso che sia per l'età che per, diciamo, formazione, credo che sia più Benedetto XVI a non essere per nulla interessato al calcio, nonostante le origini bavaresi. Sì, però invece io quell'altro, Bergoglio, penso proprio di sì. Me lo vedo questa sera sì. Alle 21, piantato davanti al televisore nei suoi appartamenti papali. Vi leggo qualche altro pronostico: vincerà per 1-0, credo, la Germania al secondo tempo supplementare, e poi ancora Germania. Troppo facile questo pronostico. Vince la Germania, l'abbiamo detto, però insomma è quasi sin troppo banale dire che vincono i tedeschi, mentre secondo me è abbastanza evidente che sarà una partita ben diversa da quella che abbiamo visto in semifinale tra la Germania e il Brasile, cioè sarà una partita molto più bloccata, io temo anche noiosa, spero non si anche arrivino perché l'Argentina l'ha dimostrato, insomma è una squadra abbastanza rognosa, molto solida, poco spettacolare nonostante abbia davanti giocatori di assoluto livello come Higuain, Messi, Aguero e compagnia, però credo che sia una squadra molto bloccata, quindi non sarà la gara che abbiamo visto contro il Brasile. E poi bisogna vedere che Germania sarà, perché la Germania è stata sfavillante, strepitosa contro il Brasile, ma avevo avuto modo di vederla contro il Ghana e l'Algeria, non mi aveva fatto la stessa impressione, quindi occhio a dare l'Argentina sicuramente sconfitta. Sì, abbiamo visto due Germania in questo mondiale e non tutte e due sono state tali da rubare gli occhi. 800 24 00 24. Nibali ha perso la maglia gialla, ma niente preoccupazione perché l'ha presa un francese che forse non arriva nemmeno a Parigi, gliela tiriamo lì, no, l'ha presa Gallopin in una giornata in cui sostanzialmente Nibali però ha controllato il gruppo dei migliori, quindi non è più in maglia gialla. Poi alla fine chiederemo al nostro Pier Augusto Staggi di aiutarci a leggere questa giornata del Tour de France. Traffico. Il mio primo sogno è giocare nel mondiale e il secondo è salire campione. Tutti convocati. Molto felice perché ho vinto oggi il mondiale, ero tre volte nel finale, oggi ho vinto questo grande spettacolo del mondo e io penso la squadra di Germania ha vinto questo mondiale, corretto, perché la squadra ha giocato un calcio eccezionale, ha giocato un calcio in più come tutti gli altri squadri. Che comincia da bambino. La Germania ha dimostrato di essere una grandissima squadra, su questo non c'è dubbio, solo che la Germania non ha potuto concludere a rete quel gioco che faceva molto bene, arrivava in porta e non poteva concludere. Dopo ci ha pensato Codesal a che la Coppa rimanesse in Europa. Carissimo per Luigi Pardo, ci sei? Ti abbiamo recuperato? Anche prima noi non ti sentivamo invece, peccato. So, sei in viaggio verso il Maracanã, allora, giusto? Sì, ho parcheggiato, che insomma direi gli obiettivi della giornata. Prima era svegliarsi in tempo per fare i live che abbiamo fatto stamattina, cioè allora di pranzo italiano. Il secondo era riuscire a parcheggiare e quindi insomma diciamo la giornata è in discesa adesso, speriamo. Sì. Mi racconti un po' l'atmosfera fuori dal Maracanã? Ma guarda, ci sono 100.000 argentini in città, quindi questo, molti si concentreranno intorno a Maracanã. Anche uno 20 secondi fa mi ha chiesto, dai, ti faccio una fotocopia, faccio una fotocopia a colori del pass, cose di questo tipo. Insomma, c'è una sovrastruminanza argentina in città. Me lo sai per vedere, perché poi in realtà bisogna capire quanti biglietti sono riusciti realmente a recuperare. Sicuramente ci saranno più argentini doc che tedeschi, però poi ci sono i brasiliani di mano Germania, insomma, a parte Neymar, credo che mediamente i brasiliani dicono Germania, anche se devo dire che questo riflettevo anche su cambiato il mondo, quando è diventato più aperto. Ho incontrato in questi giorni anche molti brasiliani che tifano Messi, semplicemente perché sono attratti da Messi. Solamente posso dire che con le forze dell'ordine, non le forze dell'ordine, con gli stimoli brasiliani non ho feeling, sono andato da una parte, adesso mi dico andare dall'altra. Benissimo, torniamo indietro. Tanto hai più o meno 3 ore per entrare, sì, al Maracanã. Ci sono anche dei collegamenti da fare un po' prima, però sono questi sono dettagli. No, quindi capito, alla fine secondo me non è sicuro che lo stadio sia completamente pro Argentina. Sicuramente di persone, diciamo tifose che vengono dai rispettivi paesi, ci saranno più argentini che tedeschi, però i brasiliani potrebbero schierarsi. Ti stavo dicendo questa cosa, che appunto quanto è cambiato tutto, nel senso che nel 1950 o 30 anni fa, 40 anni fa, quando non c'era il calcio internazionale, la cultura del calcio internazionale, quando il calcio non era ancora così globale, sarebbe stato impossibile trovare i tifosi brasiliani che magari simpatizzano oggi per Messi. Sì, oggi sarebbe, tutto sì. Però io li voglio vedere, Piero. Io li voglio vedere stasera, finita la partita, quando Messi alza la coppa. Sono 4 giorni che faccio interviste ai brasiliani su questo tema e ti posso dire che secondo me tre quarti a un quarto, insomma, ogni 4-5 persone uno di Argentina, c'è uno che comunque ha simpatia per Messi, che preferisce un paese latinoamericano, insomma, poi la rivalità ovviamente è feroce, anche perché insomma dopo il mondiale che ha fatto il Brasile sarebbe veramente un'ulteriore onta. Sì, le strade del tifo sono imprevedibili. Intanto arriva notizia, io non so se ce l'hai anche te, Pierluigi, che potrebbe esserci una sorpresa nella formazione dell'Argentina. Nicolò? Sì, dovrebbe giocare Di Maria, sorpresa da titolare. Hanno lanciato questa notizia pochi minuti fa tutti i media argentini sui vari social network. Sicuramente Pier in Brasile ne saprà più di noi, però sarebbe una sorpresa importante che accenderebbe ancora di più la finale. Hanno scherzato, Pier? Di meno, perché il momento del parcheggio è uguale in tutto il mondo, se possibile peggiore in Brasile, quindi c'è un momento in cui uno si sconnette fuori dal Maracanã e parcheggiare. A parte le battute, è una mossa illogica, irrazionale per quello che è il tipo di infortunio, però è anche una circostanza eccezionale, quindi magari si prova. Sì. Ricorderete Diego Costa che provò difatti, a forzare, no? Che non fu una grandissima idea. No, non è una grandissima idea. Simeone venne messo in croce perché aveva chiesto questa cosa, ed era, se vogliamo, Diego Costa ancora più centrale nel gioco dell'Atletico Madrid di quanto Di Maria lo sia nel gioco dell'Argentina, anche se Di Maria comunque avercelo o non avercelo fa una differenza. In una squadra che è essenzialmente brava nel distruggere il gioco avversario, è chiaro che il talento della giocata individuale è fondamentale. Messi su tutti, Lavezzi anche se Lavezzi comunque si deve sacrificare indubbiamente in un compito di marcatura, in un compito più da centrocampista che da attaccante, se l'Argentina non vuole ballare fino ai primi minuti. E quindi però Di Maria è una bella alternativa, una bella iniezione di talento e di energia. Sì, se sta in piedi, Sì. Se sta in piedi, perché se no rischi di giocarti un cambio, ma ripeto, l'abbiamo già visto con Diego Costa. Ti leggo alcuni messaggi, 349-238-6666, perché noi abbiamo aperto il grande gioco del pronostico. Stiamo anche chiedendo agli amici da casa, 800-24-00-24, che cosa si portano via come immagine più bella, come gol più bello di questo mondiale, e cosa invece lasceranno volentieri in Brasile. Noi non lasciamo più Luigi Pardo, perché lo rivogliamo qua, finita la finale, domani, io non so quando torni. Gli amici scrivono: nonostante l'amore per l'Argentina e il suo popolo, pur di non vedere esultare Maradona, io sono costretto a tifare Germania. Questo è Ettore, perché poi Maradona ha diviso molto, eh. C'è Napoli che tifa Argentina e il resto d'Italia che ha ancora il ricordo di quel 1990. Poi c'è chi scrive: Beppe da Brescia vince la miglior difesa più che il miglior attacco, e quindi vince l'Argentina. Stefano invece: vincerà largamente l'Argentina. E poi insomma in tanti ancora. C'è anche chi scrive: vincerà la squadra che indosserà la prima maglia, perché così dicono i precedenti. Chi indossa, Pierre, stasera la prima maglia? La Germania. Quindi l'Argentina gioca Germania in blu, sarà in bianco, l'Argentina sarà in blu, esatto. Poi c'è chi scrive anche: vince la Germania, tifo la Germania, zuppa di pane, capriole, mirtilli e strudel di mele. Questo è il menù mio di questa sera. Tu cosa mangi, Pierre? Si può fare di meglio, ecco, tutto il rispetto per il mirtillo agrodolce, io faccio fatica, so che è una tendenza delle cucine, ormai cucinano tutti, insomma, ormai se non riesci a fare una quiche come si deve, non lo so, oppure non sai cos'è il culisse, sei uno segnale. Quindi, per carità, il mirtillo col capriolo, sì. Sì, si può fare meglio, poi è vero che non fa caldissimo in Italia, però siamo anche un po' fuori stagione, Pierre. Massimo rispetto, io mangerei volentieri del carboidrato italiano, anche se qui in Brasile sto mangiando molto bene. Controlliamo quando torni. Ascolta, c'è chi dice, ci scrive Marco Franzoni, che è un arbitro, dice: voi state facendo i pronostici, in realtà noi questa sera abbiamo già vinto perché c'è Rizzoli. C'è qualche tifoso di Rizzoli? Insomma, siamo qua con proprio comando ultra, ci mettiamo qui, Crosetti, Gondò, Arezzi, Ceganessa, alziamo le bandiere e urleremo tutti in coro: Rizzoli. a parte le battute, è chiaro che è una soddisfazione per lui prima di tutto, dopo tante critiche, per il calcio italiano anche. Io devo abbracciare la linea di Graziano Cesari, perché penso che ci sia stata una grande disparità di rendimento fra quello che ha fatto vedere a livello internazionale anche in questo mondiale e invece quello che ha fatto vedere in Italia. Per dirla tutta, noi siamo del partito che siamo felicissimi per Rizzoli, ma non è il miglior arbitro italiano, perché il miglior arbitro italiano per rendimento è stato qualcun altro. Pier, ti devo salutare perché c'è il GR, resta lì perché poi ci ritroviamo, poi facciamo anche con te poi il bilancio di questo mondiale. 800 24 00 24, Bet Corner. Quote e pronostici. È il giorno della verità. Ai mondiali di Brasile 2014, alle 21 c'è la finalissima del Maracanã, l'ultimo atto che consegnerà al trono del mondo la degna erede della Spagna, e sono queste le quote sniper. La finalissima di Rio de Janeiro: la Germania è favorita dopo le 7-1 al Brasile e l'1 la vittoria dei tedeschi è quotata a 2,25, l'X è a 3,20, il 2 invece, con il successo dell'Argentina che sarebbe per la terza volta campione del mondo, è quotato 3,40. Sono interessanti anche le quote dell'under, quotato 1,55, dell'over 2,5, quotato 2,30, del gol, quotato 1,95, del no gol, quotato invece 1,75. Interessanti anche le quote dei nomi del primo marcatore del match: Müller per la Germania è favorito a segnare per primo ed è quotato 6, Klose 7, Podolski e Götze 10, Messi nell'Argentina 6, Higuain 8, Agüero 10, Palacio e Lavezzi 12. Quando siamo giunti invece alla nona tappa della Tour de France, Nibali mantiene la maglia gialla nella tempesta, ma secondo Snai il favorito a vestirsi di giallo a Parigi è Contador, quotato 2, mentre Nibali è quotato 2,30, Port è quotato 18, Valverde 50, Taranski 66. Tutti convocati. Corto per Pirlo, la finta, Marchisio, zona tiro, ecco la destra, Claudio Marchisio, sabato mondo, l'arbitro manda tutti sotto la doccia, passa l'Uruguay, veniamo eliminati, un terzissimo finale di questo mondiale, perdiamo 1-0, gol di Godin, Jackson Martinez, è arrivata la copertura, ancora Jaime! si può essere eroi in un minuto, in una notte incredibile, a Salvador de Bahia, a Salvador de Bahia. Müller dentro, Ovedes la mette giù, poi cerca il tiro, 7-0 di Schürrle, 7-0 di Schürrle, 7-0. Questo era il film del mondiale, eh? Il nostro Giorgio De Luca, autore, non so se si nota che tifa leggermente argentina questa sera. 800 24 00 24, voglio sapere anche da voi il vostro film del mondiale, quindi qual è il momento più bello, il gol più bello. Noi abbiamo votato Van Persie, però ce ne sono anche altri, anche la cosa che vi è piaciuta di meno, ad esempio a me le lacrime, non se ne può più di giocatori e non solo i brasiliani, che piangono. Io sto con Matteus, che ho già detto, insomma, inno e piangono, vincono e piangono, perdono e piangono, non se ne può più dei brasiliani. Io sottoscrivo. Federico Casotti, Nicolo Schira, Pierluigi Pardo, credo al Maracanã, se sei entrato finalmente. Sì, sono in un affollatissimo centro stampa, affollatissimo e rumorosissimo, e qui uscirò dal centro stampa. Dacci il tuo meglio e il tuo peggio di questo mondiale. Ma il mio meglio è, come gol, forse Messi, direi Messi contro l'Iran. Come qualità di gioco oggi, secondo me, insomma, si riferisce variamente al concetto di tipo, premesso che tipo per Ponza e Favignana in questo momento, però direi anche per Paraggi, per la par condicio, però direi che l'Argentina secondo me ha giocato meno bene della Germania, anche se far giocare male gli avversari è comunque, non è un dettaglio, non è una cosa che può essere bollata come un dettaglio insignificante, è una cosa importante far giocare male gli avversari, per cui dietro le prestazioni dell'Argentina c'è anche questo, non si arriva in finale se sei scarso, però credo che la Germania abbia fatto di più, e quindi diciamo occhio e croce oggi prima della partita tipo Germania, nel senso che credo che solo meriti di più la Germania, tipo una parola veramente astratta che non conosco, ma insomma diciamo che per ora, se dovessi decidere a chi dare il premio, lo darei la Germania, perché l'unica squadra pronto a saltare rapidamente sul carro dei vincitori se fosse invece l'Argentina. Se l'Argentina oggi dimostra di essere migliore della Germania, riesce a batterla sul piano del gioco, perché il calcio conta solo il campo. Una valutazione prima della partita, secondo me, è questa, cioè la Germania comunque ha fatto vedere di altissimo livello, come poche squadre hanno fatto in questo mondiale. L'Olanda pure, ma da questo punto di vista ha fatto delle cose più belle dell'Argentina. L'Argentina però ha avuto questa capacità di soffrire, di lottare, di avere equilibrio, di concedere poco e poi di trovare sempre o l'episodio o la freddezza o la fortuna. Insomma, alla fine, ripeto, non si arriva al finale per caso. Sì, da casa ci segnalano che oggi ha vinto un tedesco al Tour de France, e questo potrebbe essere un segnale. Ha vinto Tony Martin. Se voi cercate oggi cose nel mondo, ne troverete 50 che vanno in un senso e 50 che vanno in un altro. Adesso per esempio sto facendo una foto con un selfie con Riccardo Gentile, storico cronista della Bundesliga di Sky, e quindi potremmo dire che è una notte dei Tedeschi. No, c'entra niente, assolutamente niente. Chiedigli se almeno lui tiene alla Germania, visto che è storico telecronista della Bundesliga. Aspetta, che poi in realtà l'ha lasciata la Bundesliga perché c'è Marianella. Aspetta un attimo, in Germania mi chiedono da Radio 24, quindi pensaci bene. Indubbiamente. Quindi, più Germania che Argentina. Più Germania che Argentina. Con popolarità a Napoli per il signor Gentile, vabbè, ma del resto lui è terrorista a Bundesliga, per chi deve dire, ma scusate. Che gli è fuori di Napoli, dici ognuno tu. Ognuno ha il suo Pantheon. Federico da Rimini, 800 24 00 24, Federico. Buongiorno, grazie per la convocazione. Buongiorno, sento un accento particolare. Sono dell'Argentina fino al collo. Argentino fino al collo? Tutto argentino, sono un po' italiano pure, ho i nonni italiani dell'Emilia Romagna, ma io sono argentino, sono anche italiano. Però oggi sono più argentino che mai. Come va a finire stasera? io mi auguro che vinca l'Argentina giocando il calcio argentino, con un po', va bene, di tattica, di tutto, ma voglio vedere la poesia che può fare Agüero, Messi, Palacio, Lavezzi, tutti quelli calciatori che giocano, che fanno spettacolo, contro la matematica tedesca, la tedesca tedesca vuole la poesia, che vinca la poesia. Sì, che è un po' il contrario di quello che ha fatto l'Argentina fin qui, carissimo Federico, perché è stata un'Argentina un po' provinciale, tanta garra, tanta tattica, poche emozioni. Sì, ha fatto un po' di tattica perché c'è questo, che la difesa non è forte, allora bisogna fare un po' di tattica, però... Prima o poi, se vuole vincere l'Argentina, dovrà fare un po' di poesia, un po' di magia, perché non può giocare uguale alle condizioni dei tedeschi sul campo. Bisogna giocare con la poesia e che vinca il più bello, vorrei io, non che vinca quello che è più effettivo, sennò che vinca il calcio più bello. Prima o poi sarà anche il caso che si muova, perché questa sera alle 23 tutto è finito, quindi più prima che poi. Grazie Federico, c'è anche Roberto dalla provincia di Parma, ma c'è prima il traffico. Traffico. Maradona è meglio di Pelé. Convocati 800 24 00 24. C'è chi scrive: Geppo da Mantova, dobbiamo tifare tutti Argentina, se no la Germania arriva a 4 e ci raggiunge. No, ma noi l'abbiamo già smontata, carissimo per Luigi, lo diciamo anche a te, te lo comunichiamo, così lo dici anche lì agli amici tedeschi. Noi questa roba l'abbiamo smontata. Se questa sera la Germania vince, è il primo titolo della Germania, perché gli altri sono della Germania Ovest e quindi non si vede perché debbano appropriarsi di tutto. Assolutamente. Quindi, forse poi per la Germania Ovest vincerlo era ancora più facile, nel senso che era ancora più difficile perché aveva solo un pezzo di territorio, quindi un certo gruppo umano di popolazione, non tutto, però questo, noi siamo formali, burocratici, giusto? Sì, assolutamente. Sì, è il primo titolo e non il quarto. Sarebbe la prima volta, cominciamo a dire, c'è grande eccitazione tra i tedeschi, che potrebbe essere la prima vittoria al mondiale. Giochiamocela così. Assolutamente. Roberto dalla provincia di Parma, Roberto. Buonasera, grazie. Volevo fare il mio pronostico, è più forte la Germania, però dato che non ci sono state nessuna sorpresa, io spero che vinca l'Argentina, che sarebbe la prima sorpresa. Sì, sarebbe la prima qualche sorpresa c'è stata, Io chiedo anche a Federico Casotti, ad esempio, che la Spagna uscisse dopo due partite, secondo me... La Spagna era a fine ciclo, tanto di cappello la Spagna, per quello che ha fatto prima. Dopo poi i cicli finiscono, ragazzi. Sì, però così, in due partite, prendendone cinque alla prima. Costa Rica che va a due rigori dalla semifinale, è già così una grandissima impresa di questo mondiale. Anche la stessa Olanda, secondo me, è stata una sorpresa, perché in un girone competitivo con Spagna e Cile si pensava alla vigilia, io per primo, che fosse l'Olanda l'anello debole, considerato il Cile comunque una squadra in ascesa, e la Spagna too big to fail, come si dice, troppo grande per fallire, invece alla fine è crollata proprio quella più grande. Sì, è vero che poi quando... Posso fare una considerazione? Sì, prego. È stato anche il mondiale, secondo me, dei portieri. Tutto sommato, i portieri ci hanno messo del suo, perché lei era Romero lì, sì. E nella Sampdoria era niente, era un disastro. Cioè, quello del Navas, quello del... Keylor Navas, sì. Bayern Monaco. Secondo me è stato anche il mondiale delle difese un po' allegrotte, un po' spensierate. E uno dei motivi per cui l'Argentina è in finale è che invece l'Argentina è una squadra magnificamente organizzata. Aspetta che lo chiediamo anche al direttore del Corriere dello Sport, Paolo De Paola. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi. Ci dai il meglio e il peggio del tuo mondiale? Beh, quello che stiamo vedendo per la finale, cioè il meglio secondo me è la Germania, sicuramente, è la squadra che ha saputo offrire il miglior, non spettacolo, ma la migliore consistenza, soprattutto con le squadre, diciamo, alla sua portata, cioè nel senso che Portogallo e il Brasile hanno cercato di affrontare il gioco aperto e hanno perso in maniera evidente. Quelle che invece l'hanno affrontata con umiltà, beh, l'hanno fatta un po' soffrire, però alla fine, ecco, è stata veramente la squadra più compatta che si è vista in questo mondiale. Sì, diciamo che se c'è una logica nel calcio stasera, insomma, è difficile fare un pronostico diverso, però siccome noi ci appelliamo affidiamo anche al cuore e alla magia del calcio, anche Coppi e Luigi Pardo che è là al Maracanã di Rio de Janeiro. Prego. Faccio scegliere il miglior portiere del mondiale, eh? Dai, sentiamolo. Chi è stato, Concilia o Fass? Chi è stato? Con Eco del Costa Rica, no, a parte gli scherzi, penso che Navas sia stato il miglior portiere del mondiale, anche se siamo di fronte a un fenomeno che è Neuer, che è un altro modo di interpretare il ruolo. Ecco, perché è diverso Neuer? La pancetta, la palla a mano, vanno spiegato, che tu mi ricevi la palla a mano, no, per quello che fa, per il gioco con i piedi, per la voglia di aiutare la squadra, per la voglia di comunque di partecipare, di essere uno degli 11 e non il portiere. Io ho visto fare 3 o 4 uscite fuori dall'area, un po' era anche come piaceva giocare a me, perciò forse anche in questo senso sono un po' condizionato, però è straordinario, trovo un portiere che sappia fare più cose rispetto agli altri, quindi potremmo dire, per chi sa il tedesco, sarà un momento di grande orgoglio, che è Neuer Marchegiani, il nuovo Marchegiani, il Marchegiani più nuovo, momento straordinario, sai, il contatore, sì, non ancora completo come Marchegiani, però non ancora, però no, mi sembra insomma che ci sia, poi io chiaramente a differenza di Luca non ci capisco niente, mi sembra che Neuer sia, comunichi proprio un senso di quasi di perfezione, anche se degli anni l'ho fatti in carriera, perché penso per esempio ad Arsenal Bayern dell'anno scorso, a fallì completamente l'uscita, cioè sono insomma anche i grandi sbagliano, però mi sembra veramente che sia quello più completo. Sicuramente, a proposito di Keylor Navas che potrebbe aver usato il mondiale come trampolino di lancio, lo vuole Bayern Monaco, ha offerto 10 milioni al Levante, Bayern Monaco che potrebbe avere, come ha detto Luca Marchegiani, i migliori portieri del mondiale, perché a Manuel Neuer arriverebbe il portiere costaricano Navas a fare da dodicesimo. Sì, secondo me è solo un pazzo, va a fare il dodicesimo di... Però 10 milioni, un'offerta importante al giocatore, un quadriennale da 1,5 milioni, si fa fatica a dire di no. Oh, direttore, però ti abbiamo convocato anche per altro, perché noi ovviamente sogniamo con la grande finale del Maracanã, però la verità è che noi siamo in mezzo a tutti i nostri problemi anche del calcio italiano, soprattutto usciamo da una settimana, l'ennesima settimana in cui si è parlato molto e si è fatto poco. Questo sulle dimissioni di Prandelli, beh, sì. Se c'è uno che non si meraviglia di nulla su quello che fa Prandelli sono io, perché l'ho visto all'opera, quindi vederlo scappare dopo il casino che ha fatto non mi meraviglia affatto, sta nella DNA dell'uomo. Diego Della Valle ha detto è nel suo DNA scappare, sei d'accordo che sia una figura negativa? Ma sai, io credo che ha sbagliato questo mondiale, ma aveva anche dei giocatori non all'altezza, cioè non è che sia solo Prandelli, noi siamo partiti con dei giocatori che in effetti non erano i giocatori cui vincere il mondiale, per cui tutti si aspettano sempre di vincere, però deve avere la materia prima, lui non ce l'ha avuta nel modo più è una persona che non ha le capacità per fare bene le cose, riesce a costruirsi dei rapporti mediatici sempre molto forti, ma poi alla fine, quando c'è da dimostrare dei fatti e della sostanza vera, manca sempre l'appello. Non serve polemizzare, non serve a nulla, diciamo che non è stato elegantissimo il nostro ex CT. In questo caso, voglio dire, ha lasciato l'Italia con l'amaro in bocca, non ha spiegato a nessuno cosa è successo, non ha avuto neanche la modestia di dire adesso vi racconto cosa ho fatto, me ne assumo tutte le responsabilità. Insomma, mi pare una brutta roba, però non voglio polemizzare. Oh, non voleva polemizzare, direttore De Paola. Non voleva, questo perché non voleva polemizzare, certo. Sì, ecco. Però ecco, se volevo completare la tua domanda iniziale, sicuramente il meglio la Germania e il peggio l'Italia. Ma sotto tutti i punti di vista, anche se adesso è facile sparare un pochettino su questo, su questa scadentissime avventure dell'Italia, però ci sono mille motivi. Sicuramente su Prandelli, diciamo, ha pesato un pochettino questa voglia di essere sempre politicamente corretto e di imporre alla fine una totale confusione sia nei giocatori, sia nella squadra e sia nel gioco, e sia addirittura nella preparazione, che doveva essere invece un punto forte, soprattutto dopo la partenza della Confederation Cup dell'anno scorso. Insomma, sono tanti punti di domanda. Sicuramente, ecco, se adesso dobbiamo partire da questo disastro per riguardare un pochettino il nostro calcio italiano, potrebbe essere un ottimo punto di partenza, appunto perché siamo veramente caduti in basso. Ci sono stati due grandi episodi brutti: questa esclusione dal mondiale in maniera così perentoria e poi la morte di Ciro Esposito. Quello è, diciamo, secondo me il livello più basso che ha raggiunto il nostro calcio, ed è recentissimo, quindi da lì dobbiamo partire. Un modello potrebbe essere proprio il calcio tedesco che avevamo annunciato prima. Sì, un calcio modello, tedesco che... modello da 800 milioni di euro in 10 anni, io non so se noi li abbiamo da spendere, perché poi si parla di centri federali, giovani, progetti a lungo termine, però loro hanno speso. La Federcalcio contribuisce per 100 milioni ogni anno per le 121 academy, nelle quali vanno giocatori di ogni etnia. Non è un progetto molto difficile. Certo, c'è una sovvenzione statale che noi dovremmo chiedere in questo momento a un governo che ha ben altri problemi da risolvere. Sì, tu hai capito, direttore, poi lo chiedo anche a Pierluigi Pardo, se magari da lì hanno una percezione diversa, ma tu hai capito, visto che fra un mesetto dovrebbe essere annunciato, chi sarà il prossimo commissario tecnico? Ma insomma, da quello che appare, si dovrebbe andare verso una presidenza di Tavecchio, da quello che appare. Poi credo che in questo momento ci siano tantissimi movimenti, ma movimenti isolati, e tutti quanti fanno appello appunto alla politica, e invece in questo momento, diciamo, ribadisco, altri problemi. Pier, tu hai capito qualcosa di più da lì? No, io ho capito che c'è un mondo che si dovrebbe saldare su Tavecchio, ci sono i numeri, quindi ad oggi il presidente è lui, insomma, il presidente più probabile. C'è da chiedersi, al di là del fatto che non sempre forma e sostanza, non dobbiamo cadere vittime soltanto di cose mediatiche come la lotta fra generazioni, però insomma, in un'Italia che sta cercando di cambiare, di aprirsi ai quarantenni, di fare delle riforme profonde, poi magari non riusciremo, poi magari, insomma, questa mi sembra un'ipotesi un po' di retroguardia, poi magari Tavecchio sarà il miglior presidente federale possibile, io non lo conosco, non lo so giudicare, però è chiaro che affidarsi a una persona che ha condotto comunque un tipo di lavoro su realtà molto diverse rispetto alle elite del calcio italiano e quindi internazionale a 71 anni, dargli una carica del genere, insomma, vista dall'esterno superficialmente, lo riconosco, in maniera superficiale mi sembra un azzardo, poi magari sarà il miglior presidente al mondo. A proposito di Prandelli, voglio dire, io ho una naturale simpatia per quelli che sono in crisi, in questo momento comunque sono Prandelli, al di là del fatto che andava in casa Sarai, in crisi c'è stato, e quindi ti dico che poi alla fine c'è anche Scolari, cioè ieri sera abbiamo assistito alla seconda umiliazione consecutiva del Brasile e non mi pare che Scolari si sia dimesso, c'è qualcuno in federazione che pensa di candidarlo, il presidente federale Marin non si è dimesso, e quindi insomma si dirà, vabbè, Prandelli ci aveva il Galatasaray, benissimo, comunque il fatto che avesse il Galatasaray ha fatto sì che abbiamo risparmiato un po' di soldi. In questo momento la federazione brasiliana i soldi scolari non li sta risparmiando, quindi comunque secondo me quel gesto lì deve essere visto come un gesto positivo e nobile, al di là di tutte le dietrologie e di tutte le scelte che sono state successive, perché se noi di fronte a una persona che sbaglia, perché ha sbagliato clamorosamente e poi si dimette, non gli stringiamo la mano per questo gesto, secondo me non andiamo da nessuna parte e finiamo per avallare tutti quelli che invece di fronte agli errori rimangono attaccati alla poltrona. Dici, vabbè, poi andrò a Galatasaray. Certo, quello è il mercato, fa parte del Poi vediamo, Pier, se fra 2 settimane Scolari sarà ancora il selezionatore della nazionale brasiliana. Perché in ogni caso arriverebbe con 2 settimane di ritardo, perché quello che ha fatto Scolari quest'anno del mondiale è una cosa che non ha precedenti, un senso logico, e da un certo punto di vista, come ho scritto ieri su Twitter, la grande sfiga del mondiale del Brasile è stata la traversa di Piniglia, perché se fossero usciti contro il Cile alla fine di una partita comunque discreta su un episodio, forse avrebbero fatto più bella figura che così. Sì, si sarebbero risparmiati tutto quello che c'è stato dopo. Ho un'ultima domanda velocissima per il direttore del Corriere dello Sport De Paola, a proposito però del commissario tecnico, perché io ho letto di tutto in queste ore, compreso Allegri che ha candidato Spalletti e Mancini, Allegri che invece credo sia il candidato numero 1 alla fine, ancora in questo momento. Sì, abbiamo un candidato numero uno che è Allegri, un candidato che si è proposto anche attraverso il nostro giornale, ma devo dire con molta circospezione, che è Mancini. Quindi al momento sono questi i due nomi, anche se se ne fa un terzo che è Guidolin, però non so se poi possa andare in fondo una candidatura. Tu chi faresti, direttore? Fra i tre sicuramente Mancini, lo dico con sincerità, perché comunque c'è bisogno anche di un allenatore che abbia una qualità carismatica e una qualità anche vincente, e credo che queste qualità le abbia Mancini, possa essere, come dire, un polo, un magnete per poter polarizzare un ciclo nuovo per la nazionale. Sì. A noi manca creare un ciclo nuovo, e quindi c'è bisogno di un maestro o qualcuno che possa stabilire appunto un lavoro per 2 o 3 anni almeno. Sì, e poi mi sembra anche motivato, anche leggendo l'intervista al Corriere dello Sport. Grazie, direttore. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Pier, se tu hai ancora 5 minuti, ti riprendo subito dopo la pubblicità. Che... Ho 5 minuti. Andiamo a vincere. Vai, lanciamo la fascia e poi torniamo a tutti i convocati. Weekend, a proposito. Convocati 800 24 00 24. Carissimo Pierluigi, 2 minuti, poi ti lasciamo per dirti che la nostra battaglia per il primo titolo della Germania non raccoglie grandissimi consensi, c'è chi ci ricorda che hanno fatto l'Anschluss, cioè l'annessione della Germania Est, e quindi stiamo dicendo quelle cose lì. Poi ma noi siamo pronti anche a ridere dei regali, ma noi non ce ne frega niente, è il primo titolo qui, ma assolutamente se vince la Germania è il primo titolo. Amici tedeschi, ciao, noi restiamo sempre a 4. Poi c'è questa meravigliosa prima pagina di Lunch di oggi, io non so se tu l'hai vista, la leggo velocemente. L'hai vista? Cari amichetti, Luis Felipe, Parreira, Marin, Del Nero, eccetera eccetera eccetera, ho fatto di tutto per sostenervi, non avrei mai immaginato una tale vergogna e umiliazione, allora fatemi un favore, vedete di andarvene, firmato Donna Lucia, che sarebbe la casalinga di Voghera brasiliana. Meraviglioso. Mi racconti il giorno dopo dei brasiliani, perché ieri sera io a un certo punto ho temuto. Ma sono tutti arrabbiatissimi con Scolari, sono tutti arrabbiatissimi con Marini, che è il presidente federale, e ribadisco, cioè il paragone con l'Italia va fatto, perché una volta che l'Italia la gente si dimette, va apprezzato indipendentemente dalla dietrologia o da quello che fanno dopo. Magari adesso a me andrà a fare il ministro o il presidente di, non so di cosa, però voglio dire, comunque è stato un atto, un gesto nobile che è arrivato dopo un fallimento clamoroso. Qui il fallimento è stato a questo punto è altrettanto clamoroso, perché è vero che il Brasile arriva in semifinale, ma è vero che la figura, l'umiliazione che c'è stata sarà forse ancora più clamorosa poi in casa, veramente agli occhi del mondo. E Scolari continua a dire che anche ieri hanno giocato bene, purtroppo il gol di apertura li ha un po' condizionati, e le prime pagine dei giornali sono terribili su di lui, insomma. Odia oggi scrive fora per il Pao, titola fora per il Pao, insomma, cioè non è che sono tanto per il sottile, la sensazione è quella di un grande allenatore che si è un po' bollito col passare degli anni, ma ci sta, insomma, mica voglio dire, non è un senso spending, quindi è mostruoso. Nella vita si vince e si perde, però bisogna, secondo me, rendersi conto che c'è l'eleganza, no? C'è l'eleganza, questo gesto dimenticato è abbastanza raro in giro per il mondo, che si chiama dimissioni, quando una persona che ha ricevuto un incarico e questo incarico non l'ha portato assolutamente a buon fine, ma anzi ha fatto una figuraccia, decide di rinunciare a proseguire. Poi nessuno è obbligato a farlo, ma quando viene fatto deve essere sottolineato. Non è che Scolari sia legalmente punibile perché rimane attaccato alla poltrona, ci rimane, però è chiaro che non sta facendo una bella figura, si becca le prime pagine dei giornali. La gente qui è passata, diciamo, dalla depressione alla rabbia, quasi all'indifferenza, insomma, perché anche se credo che Scolari verrà scollato da quella poltrona molto in fretta, volente o nolente, anche la federazione. Che se lo cacciano, se lo cacciano continuano a pagarlo, così come se avessero cacciato Prandelli avrebbero continuato a pagare. Invece le dimissioni sono un gesto che toglie anche questo tipo di discorso, quindi un gesto che dal punto di vista papico materiale ha delle conseguenze molto diverse. Vi dicevo che ieri, a dimostrazione del clima, all'ora della partita c'era, contrariamente a tutte le altre volte, c'era traffico, nel senso che di solito il paese si fermava come non l'ho mai visto, come qualsiasi altro paese al mondo, poi diciamoci la verità, insomma, si ferma completamente. Ieri no, cioè ieri la fine del terzo posto gliene fregava poco già tutti, poi non si è messa bene fin dal minuto 3, quindi insomma, e quindi, ieri sera a maggior ragione a cena, tutti a bere i scioppi, le birre alla spina. Ciao Pier, buona partita. Ciao. A domani Pier. 800 24 00 24. Intanto notizia di mercato: la FIFA ha bloccato la presentazione ufficiale di Suarez con il Barcellona perché c'è il Daspo e quindi non può nemmeno essere presentato, e stando così le cose in questo momento non potrà nemmeno allenarsi fino a fine ottobre con il Barcellona, perché non può andare allo stadio. Lui potrà andare, ho letto, in spiaggia a correre con un preparatore, potrà correre per strada, ma non potrà andare neanche al centro d'allenamento del Barcellona. In questo momento la FIFA ha ufficialmente bloccato anche la sola presentazione che il Barcellona voleva fare allo stadio. Poi ci sono anche un altro paio di storie di mercato. A proposito di bloccati, risulta che Mvilà sia ancora bloccato, non credo più in albergo a Milano. No, aveva raggiunto anche Pinzolo e i suoi compagni. Il problema è che Valery Sorkin, il patron del Rubin, non ha ancora mandato, controfirmati i documenti che farebbero sì che il centrocampista francese possa passare all'Inter. È un dispetto comunque, perché il giocatore comunque percepiva 3 milioni di euro netti a stagione, ha scelto invece l'Inter dove piglierà la metà. La buona uscita arriverà, sono piccole quisquiglie. Il suo agente, insomma, Fabrizio Ferrari, è stato molto ottimista in tal senso, anche l'Inter. Una serie di dispetti però che sono grotteschi nel mercato di oggi. Siamo al 13 luglio, c'è tempo fino al 1 settembre. Tra l'altro il patrono del Rubin Kazan in questo momento è in Brasile. Esatto, perché rappresenta il calcio russo. Questa sera ci sarà anche proprio il passaggio di consegne tra Brasile e Russia per l'organizzazione dei prossimi mondiali, e fa parte della delegazione che riceverà in qualche modo il testimone. Quindi ufficialmente è anche proprio per motivi logistici. La cosa divertente è che l'Inter aveva chiuso l'accordo il 20 di giugno col direttore sportivo Andrei Gromov, che è stato sconfessato proprio dal proprio presidente, quasi esautorato, tanto che Rubin cerca un nuovo direttore, quindi è una situazione sicuramente in ebollizione quella del club russo. Aspettate che abbiamo un campione del mondo al telefono, Antonio Cabrini. Ciao Antonio. Ciao. Buon pomeriggio. Noi stiamo viaggiando, adesso facevamo un po' di mercato italiano perché ci sono notizie che arrivano anche in questa giornata che è dedicata alla finale del mondiale. Come la vedi questa Germania-Argentina? Beh, una bella partita tirata, indubbiamente, due squadre completamente diverse tra di loro. Germania sicuramente più forte, più gruppo, più compatta. L'Argentina che si basa probabilmente più sulle capacità del singolo, quindi due alternative con giocatori come Messi e Higuaín che possono fare la differenza, però è chiaro, poi la finale riserva tante sorprese, magari vengono smentite tutte queste cose che sto dicendo. Ma dimmi la verità, da allenatore, tu una difesa a partire dal portiere Romero, che è anche quello che abbiamo conosciuto noi alla Sampdoria, poi ci sono De Michelis, Zabaleta, Rocco, ha giocato molto anche Fernandes, cioè una difesa così, tu per un club ad esempio di alto livello, di primo livello, di prima fascia, ma tu la sceglieresti? Non dimentichiamo anche Mascherano, che comunque è un giocatore importantissimo per l'economia della squadra argentina. È una buona difesa, è chiaro che la difesa diventa brava quando comunque c'è un settore centrale del campo che riesce a far filtro al migliore dei modi. No, dico questo perché a leggere anche magari questi nomi, a vedere come è finito il Brasile, mi è venuto in mente in queste ore che magari l'Italia, io non so se nelle prime 4, ma nelle prime 8 magari ci poteva stare, al netto di tutti i problemi che abbiamo avuto, perché poi non sono andati avanti soltanto squadre che sono nettamente superiori, come ad esempio certamente la Germania. Come la pensi? Ma sono dell'opinione che a prescindere dal Brasile, che comunque ha fatto fatica fin dall'inizio, quindi si vedeva che era una squadra che comunque non era attrezzata per arrivare fino in fondo a questo mondiale in casa propria. Però le altre squadre, dire che le altre squadre forse hanno corso di più, hanno avuto un rendimento atletico più importante di certe nazionali che europee, questo ha fatto la differenza. È stato un bel mondiale anche per quello, perché comunque questo mondiale ha fatto vedere che ormai non c'è più il calcio, la squadra materasso in un mondiale, ormai sono tutte ad altissimi livelli, e quindi ci vuole, per battere certe squadre ci vuole non soltanto l'aspetto fisico ma anche l'aspetto tecnico. Ecco, al di là delle individualità che sono emerse in questi mondiali, come inevitabile che sia, l'impressione è che però sia stato soprattutto il mondiale dei collettivi, non trovi? Sì, il mondiale dei collettivi, sì, è assolutamente vero. Il mondiale di squadre che magari 10 anni fa non erano neanche conosciute, invece il collettivo, soprattutto con il fatto che tanti giocatori di queste nazionali che magari conosciamo meno giocano poi nei campionati importanti a livello europeo, hanno fatto crescere la propria nazionale. Quindi prendendo una squadra che ha 6, 7, 8 giocatori che giocano un po' in Inghilterra, un po' nella Bundesliga, un po' in Spagna, un po' in Italia, comunque alla fine viene fuori un gruppo che dà certe garanzie. Sì, dobbiamo stare attenti anche noi italiani, perché non siamo lì nel gruppo di quelle tradizionalmente più forti per diritto divino. Ranking FIFA che uscirà ci vedrà retrocedere al 14° posto, e quindi poi noi dobbiamo anche metterci in testa che ci sarà da risalire. No, un'altra domanda, la nazionale dell'82, per un giocatore dell'82 l'idea di andare a giocare lontano dalla Serie A non veniva presa nemmeno in considerazione. Trovi che adesso, per migliorare anche la nazionale, per il bene della nazionale, sia bene che magari qualche ragazzo o qualche giocatore scelga di lasciare la Serie A e andare a giocare all'estero? No, io sono dell'avviso che siano comunque delle esperienze molto positive e producenti per l'atleta che va a giocare all'estero. L'importante è che siano un campionato importante, quindi quei 4-5 campionati a livello europeo che comunque sono forse sicuramente, anzi qualcuno addirittura superiore a quello italiano, quindi dove si fanno le ossa, dove crescono, dove possono comunque poi ritornare in Italia e dare il loro contributo. L'importante è che queste uscite di questi ragazzi, di questi giovani atleti italiani, non si devono considerare come fuga dal calcio italiano. Ecco, questo bisogna soprattutto prendere atto. Sì, adesso abbiamo il traffico, ci dobbiamo fermare. Mi piacerebbe sapere però da Antonio Cabrini che cosa ne pensa, ad esempio, di quello che si legge in queste ore, cioè di Scuffè, 17 anni, che per un'operazione, credo, di bilancio dell'Udinese, quasi certamente perderemo, andrà a giocare prima nel Granada, poi nell'Atletico Madrid. Ecco, secondo me questo è un pessimo esempio però di come anche i club e i dirigenti italiani debbano fare per aiutare il calcio italiano a restare a risalire, a restare ad alto livello. Però abbiamo il traffico, torniamo subito Antonio. Tutti convocati. 800 24 00 24. Oh, c'è chi ci scrive, ci dice: beh, addirittura superiore a quello italiano come qualità di campionato, non è che ci voglia molto, però attenzione, perché noi ci buttiamo via anche in fretta. Ad esempio, nelle rose di Germania e Argentina ci sono 9 giocatori che in un certo senso dipendono dalla Serie A, 8 diciamo direttamente, poi c'è Romero che era fuori in prestito, e quindi faremmo anche bene a fare un ragionamento su quello che è il nostro valore, perché non so, il campionato colombiano, vi sfido a dimostrarmi che sia più allenante, più di alto livello della nostra Serie A. Peraltro la Colombia, la formazione titolare della Colombia era quasi tutta di giocatori di Serie A. Sì, tra l'altro. Antonio Cabrini, ad esempio, parlavamo di Scuffè, a me sembra una follia che a 17 anni si possa andare via dall'Italia per una questione puramente di bilancio, perché questo è, pur con tutto il rispetto, di quello che fa l'Udinese. Queste sono le problematiche delle società italiane, non... Che naturalmente non sono esenti dalla crisi che persiste in Italia. è normale che poi si cerca di piazzare anche il ragazzo giovane, il ragazzo interessante, una squadra che comunque ti possa, possa pagare in maniera adeguata. In Italia non c'è più questa possibilità, questo è evidente, quindi bisogna un po' soprattutto avere la possibilità di puntare sui settori giovanili, ritrovare il gusto di far crescere i ragazzi per poi lanciarli in prima squadra. Questa è la volontà che ci deve essere da parte delle società italiane. Come giudica l'acquisto di Patrice Evra, visto che insomma lei di terzini sinistri se ne intende? Poi avevamo letto nelle scorse settimane anche il suo nome accostato alla panchina della nazionale. Se la chiamassero i nuovi... No, se l'hanno chiamata a questo punto. Se no, è suonato o no il telefono. Non vorrei commentare. No. Non commento. Restiamo su Evra allora. Sì, esatto. Siamo andati a prendere un ultra trentenne. Questo è anche un dato, diciamo, che si inserisce nel discorso che facevamo. Io mi auguro che possa essere utile alla causa. Anche giocatori di che comunque hanno un certo talento e sicuramente possono essere utili alla causa, però diciamo che purtroppo, ripetendo quello che ho detto prima, purtroppo i soldi mancano rispetto ad altri campionati dove ormai da 4 anni che i grandi campioni non vengono più in Italia e quelli che c'erano sono fuggiti dall'Italia. Questo purtroppo è il panorama del calcio italiano attuale, quindi c'è soprattutto da riabilitarlo, soprattutto da lavorare ancora in maniera diversa per farlo crescere, per cercare di ritornare a certi livelli. Ci vorrà tempo e questo bisogna metterlo in conto, perché non è impensabile che si possa nell'arco di brevissimo tempo ritornare ad altissimi livelli. Questo dobbiamo metterlo in testa tutti. Sì, c'è chi ci dà degli analfabeti, è la legge del mercato. No, scusate. Siamo analfabeti. Scusate, però Scufea 5 milioni più il 50% della futura cessione, secondo me può farlo. Ma con proprietà mascherata, ecco, se vogliamo, per carità, può farlo anche il Milan, l'Inter, la Roma, il Napoli, la Juventus. Sì, no, ma io questo sto dicendo, farlo, capito? Abbiamo tutti i mezzi per farlo, per crescere, assolutamente, questa è la verità. Però ci vogliono le idee giuste, idee sane e la chiarezza soprattutto, perché comunque non ormai è finito il tempo di dire ecco, noi siamo italiani quindi siamo bravi, perché? Ma perché da che cosa? Cioè, noi siamo italiani e in questo momento stiamo soffrendo come nella vita di tutti i giorni, anche nello sport. Se vogliamo essere ritornare a certi livelli bisogna dimostrarlo, ma la dimostrazione bisogna comunque lavorare e faticare, cioè non con le parole ormai non servono più per il calcio italiano. Sì. Non c'è più servono idee, progetti e poi arriveranno anche i soldi. Esatto. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie ad Antonio mille. Cabrini, dopo 30 secondi parliamo di Vidal, però parliamo del Tour de France a proposito di italiani che soffrono. Pier Augusto Stagi, ciao Pier. Ciao, buon pomeriggio. Ci spieghi cos'è successo esattamente oggi a Nibali, che, lo ricordiamo, ha perso la maglia gialla, è andata via una fuga. Ho letto alcune sue dichiarazioni, ha detto nessuno ci ha aiutato, però non perdiamo la testa. Allora, aiutaci a capire se è stata davvero una domenica difficile o se in fondo può anche essere un vantaggio non aver più quella maglia gialla sulle spalle. No, guarda, nel ciclismo, come in tutti gli sport, si vince con la forza, ma si vince anche con l'intelligenza. Forse quelli meno avvezzi al ciclismo non sanno che per vincere un Tour de France non serve solo avere grande cuore, grandi polmoni, grandi gambe, ma bisogna avere anche grande lucidità e capire che una corsa termina ad esempio tra 2 settimane, perché domani si correrà la 10ª tappa e ci sono ancora 2 settimane di corsa, e soprattutto c'è da scalare ancora una tappa molto difficile, quella di domani, la Place de Belfi, che è il primo vero arrivo in salita a 5 stelle, poi ci saranno tutte le Alpi e tutti i Pirenei. Cos'è successo oggi? Che è andata via una fuga di 17 corridori, con dei corridori che non danno fastidio agli uomini di classifica, non danno fastidio né a Nibali, né a Contador, né a Valverde, né a quelli che ambiscono, a quei 10 corridori che a tutti gli effetti hanno le potenzialità per vincere il Giro d'Italia. E quindi l'hanno fatta abbastanza andare via, diciamo. Cosa succede? L'hanno senza abbastanza, l'hanno lasciata andare via. Poi dopo devi controllare, perché logicamente qualunque corridore può diventare pericoloso, e a quel punto l'Astana, che è la squadra di Vincenzo Nibali, la formazione kazaka, che ha il peso, ecco dove andiamo a dire, il peso della maglia gialla, cioè controllare la corsa, ha dovuto poi mettersi in testa e mantenere un'andatura costante per fare in modo che il distacco non lievitasse oltremodo. L'operazione è riuscita, però non c'è nulla di drammatico. Questa sera in testa c'è Galopin, alla vigilia della presa della Bastiglia, quindi domani festa nazionale per i francesi doppia, perché hanno anche sulle loro strade la maglia gialla francese. Nibali è secondo a 1 minuto e 32 secondi di ritardo, ma domani soprattutto c'è un arrivo in salita importante dove la classifica può essere nuovamente rivoluzionata, cioè domani ritroveremo a tutti gli effetti scaramucce tattiche, strategie anche psicologiche, una lotta di nervi tra Contador e Nibali, ma poi alla fin fine la lotta di nervi conterà fino a un certo punto, perché poi quando la strada tende a salire lì devi andare, e quindi domani sera saremo qui a parlare e lì si potremo dare e lì cominceremo a fare non dico un primo bilancio, però cominceremo forse ad avere le idee più chiare. Pier, ti devo lasciare perché siamo in fondo, a domani comunque dopo buon le 14. Grazie per Augusto Stagi. 30 secondi, oggi la tercera rilancia Vidal che apre al Manchester United, grande paura per i tifosi juventini. Nicolò, cosa succede? Dipende dall'offerta che farà lo United. Se offrono almeno 50 milioni la Juve ci penserà seriamente, con il giocatore ci sono già stati dei contatti e Vidal credo sarà ben contento di andare. Ci fermiamo qui, grazie a Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Fabio Cantadori, Pietro Lacorte in regia, grazie a Federico Casotti, gol.com Italia, grazie a Nicolò Schira. Domani ci sono ancora io dopo le 14, ciao. Convocati.